Dici cheese, forse il mio flash, no cash flow, però a cena, lady, se non colleghi stamattina, assicurati prima di aver attaccato la spina, spinna, polli nel pollame, se non piolli più e non hai piumo da piollare, non devi sclerare, anche se il discorso è per assurdo come la siccità in mare, pare, vero, meno pare, se non sclero, ognuno con i propri cazzi, ogni volta che ti vedo, non c'è scusa, ho le mie cose, se anche tu hai le tue cose, città e suca, tu usaca, acciottia, è una malattia che fa più brutto da scattaria, in affigliarpia, caglioca, ciccio tocca, mica mamma boh, no, solo Tony tocca, yoga, bonito, mobito, stranito, lo hai avvertito dalla strofa, posso in yoga, non posso lo yoga, motivo tutto, signora la frutta, e che se lo succo, il dunque, del discorso il succo, ti vengo in soccorso perché te lo traduco, deduco che non ti aiuto se la nuvola scompare e c'era scritto help, sul rap non ci lucro, su fu benni mamma ma pu. Signor io mamma Luco, a Luco da specchio per le allodole, scomodo notevole, non lodo il lodevole mammuccio, dietro un astro debole, lasciando d'incanto di tanto in tanto, con un incastro incantevole, memore di sparare, cazzate ok, ma non me ne voglia proprio lei, onorevole, onorevole, pende, o non credo che chi mente possa dettare regole per non infamare la gente, se la gente di merda governa, col cervello in panne, non per le canne, come pannella, ma stella dei cadi, che esprimo un desiderio per questi Peter Pan anziani, che fan pan per la loro panza, che fan pan dan con la pancia di chi mangia in maggioranza, maggior ansia, picchi, sa chi ruca lassi, chi ruca trovi, chi si sui stessi e non cangia la situazione, maledizione, la questione meridionale, non è male l'addizione, noi, cari alla tradizione, la divulghiamo, siamo missionari in missione, beta, radice, virux, dal basso, non ti piace il pezzo, incredibile ma falso.